nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Quante cose, anche questa settimana cercavo adesso di fare un po' il punto, perché anche con un solo fatto, per esempio le questioni legate alla Lega, ogni giorno ne vengono fuori, ma 5, 6, 7, 8, 9, fino magari anche a mezzanotte e oltre, quando sono lì che preparo il GR, ce n'è sempre una dichiarazione nuova, una rivelazione nuova. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è passata una settimana, quindi da quando ci siamo sentiti l'ultima volta è chiaro che di cose ne sono venute fuori moltissime a livello mondiale. Ma voi ci avete pensato, naturalmente, pensando a questo appuntamento, non ci sono più le mezze stagioni, a qual è la notizia di questa settimana che vi ha colpito e qual è il vostro commento, quello che liberamente vorrete fare all'800 24 0024, numero verde gratuito ed ecologico, 800 24 0024. Tra poco naturalmente vi presenterò l'opinionista estemporaneo di oggi per commentare insieme, in modo anche diciamo con una particolare levatura, i fatti della settimana, a seconda naturalmente dei punti di vista, siete d'accordo o non siete d'accordo, potete anche intervenire su quello che dirà l'opinionista, 800 24 0024. Ma quali sono, a parte appunto la questione Lega di questa settimana, sempre dominante per quanto riguarda le notizie italiane, no? Proprio ieri poi Bossi è tornato a dire, ieri o l'altro ieri, non c'è reato, i soldi erano della Lega, li possiamo buttare dalla finestra. Ora bisogna vedere poi il partito se veramente quanti soldi ha per quello che riguarda i tesserati che hanno devoluto così diciamo spontaneamente, quanto invece il finanziamento pubblico, perché sapete che si sta discutendo moltissimo del finanziamento pubblico ai partiti, sapete che prendono il 400% in più come rimborso elettorale, non succede a nessuno quando voi fate una spesa anche lavorativa eccetera, qualche volta può succedere che uno non venga neanche rimborsato, però difficilmente vi danno quattro volte quello che c'è, una generosità straordinaria che è naturalmente presa dalle nostre tasche. Poi è venuto fuori l'affitto di Calderoli, anche se naturalmente si può pensare che un partito può pure affittare un appartamento per un suo esponente, però le vicende sono tante, Lingotti, Diamanti, non si capisce se presi con i loro soldi oppure no, Belsito li ha restituiti, comunque li ha affidati ad un autista, non si sa perché gli autisti in questa storia della Lega hanno tutto questi ruoli da protagonisti. Poi in Lombardia un altro leghista, Boni, presidente del Consiglio Lombardo, ha fatto un passo indietro e Bossi ha detto proprio ieri: voglio fare un accordo con Maroni. Sembra che ci fosse un po' di tensione tra loro per questa storia del dossier su Maroni, però insomma continui sviluppi. Poi sapete anche che Formigoni, presidente della Regione Lombardia, è al centro di una bufera, non è indagato, ma insomma sono molti i sospetti, i commenti su lui, sulla sua figura, sull'opportunità politica di continuare con un consiglio che ha almeno una Regione Lombardia che ha almeno 10 indagati, e lui stesso insomma, frequentava in queste vacanze di gruppo diversi faccendieri, è tutta una questione ancora da chiarire. E poi Draghi, che ieri sera ha detto bah, in fondo il G20 dice che apprezza gli sforzi dell'Italia oltre che della Spagna, stiamo andando abbastanza benino. L'arresto di La Vitola e poi Pisanu all'interno del PDL che dice voglio formare qualcosa di nuovo, e cominciano a muoversi anche insomma i vari partiti tradizionali, forse vogliono cercare di cambiare dopo diciamo il malcontento e l'antipolitica, no? Questo termine che si sente tanto ultimamente. Sandra Mariani, una bella notizia, l'ostaggio che da più tempo era in mano ai rapitori è stata liberata, la crisi economica che continua a portare a suicidi, le presidenziali francesi, anche queste sono molto interessanti, domani c'è il primo turno, bisogna capire se lo vincerà Hollande o Sarkozy il presidente uscente, e poi l'ultimo saluto al calciatore Morosini, insomma una quantità infinita di cose e io vi ho fatto proprio un sunto infinitesimale. 800 24 0024. Ma vi voglio anche dire, come sempre, che cos'è che anche questa settimana ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere. Sono un granché. Ecco, mi viene in mente, a parte sempre questioni meteorologiche molto presenti e oggettive ultimamente, oggi c'è il sole a Milano, ieri pioveva di rotto, insomma, e le temperature che salgono, scendono, mi ha dato l'impressione di un segno dei tempi, di tempi molto ristretti, più recenti, l'emiro del Qatar, che è venuto a trovare il presidente del Consiglio Monti, e quando il presidente Monti gli ha chiesto, ma perché, vabbè adesso ho ricominciato a investire, ma perché ultimamente, insomma, questi investimenti hanno tardato a venire, avete esitato, e uno si aspetta aspettava l'articolo 18, sarà sensato questo benedetto articolo 18. No, ha detto la corruzione. Avete capito? Quindi finora si era detto che non investono gli stranieri per colpa di questo articolo 18, invece sembra che qualcosa di più grande, di più importante, di più pervasivo sia il vero motivo del fatto che le aziende straniere, gli stranieri più difficilmente investono. Corruzione. Abbiamo un esempio ogni giorno, è veramente un vaso di Pandora che si scoperchia costantemente. Ma adesso, signore e signori, io direi di dare subito spazio all'opinionista estemporaneo di oggi. Mario Sechi. Eccoci qua. Carissimo Mario. Buonasera. Come andiamo? Come andiamo? Andiamo in treno, mi pare di aver capito? No, in macchina. Ah, in macchina? Come? Ho cambiato mezzo, macchina, sì. Ma, sì. Ma l'hai fatto per me? Oggi in macchina. Ma l'hai fatto per me o no? Perché, sì, fatto? Per te. Solo per te. confessiamolo in diretta. Mario, io mi sento così lusingata e così anche emozionata di questo, perché sapete che Mario... Immagino. No, lo sono veramente. Mario doveva, ma aveva avvertito, dice, guarda che sarò in treno. Dico, no Mario, perché qui su Roma-Napoli, qui c'è il rischio tra gallerie e cose varie che ti perdo continuamente e le tue preziose considerazioni sui fatti della settimana si perdono insieme a te. E mi ha detto, no, sono sul treno su Italo con Montezemolo. Io a questo punto ci avevo fatto un po' la bocca, magari gli chiedo anche qualcosa a Montezemolo così alla sprovvista, invece non sei con lui accanto, no? No, perché è stata fatta ieri. In è stata fatta ieri, vero, la presentazione ufficiale. Per la stampa è stato fatto ieri. Com'è andata? Ho visto che è rosso come la Ferrari questo treno, quindi già sì, insomma è in linea con... È una bella impresa italiana, e ovviamente che porta crescita e sviluppo e quindi va salutata con grande favore in un momento... tra l'altro molto difficile per il paese. Andava... Insomma, è una cosa positiva. Andava veloce? 300 orari, non vibrava niente, andava che era un piacere. Molto bene, quasi come la Ferrari, quindi vuoi dire, insomma, anche se ultimamente sì, insomma, Montezemolo non mi sembrava molto soddisfatto, adesso ci sono ancora le prove, vedremo se esce fuori una qualche classifica delle prove. Mario Sechi, bisogno di presentazioni, no, è il direttore del Tempo, quotidiano di Roma, e io vorrei subito fare uno scambio equosolidale con te, Mario, se mi consenti. Io darò a te... Le consento. Mi consenta, io darò a lei una rivelazione e tu darai a me, anche tu, cioè, mi darai una specie di ragguaglio su questa cosa che ci tiene tutti col fiato sospeso. Insomma, io ti do questa notizia. Gli orsi polari sono molto più vecchi del previsto, non nel senso che sono quelli che sono invecchiati, che hanno una certa età, no, nel senso che gli orsi polari sono molto più vecchi del previsto perché sono diventati una nuova specie, cioè separati dai loro parenti più tradizionali, gli orsi bruni, circa 600.000 anni fa, quindi molto prima di quanto si credesse. È uno studio questo incontrovertibile di Science, poi c'è tutta la spiegazione come hanno capito questi orsi polari eccetera. Quindi io ti ho dato questa cosa un po', diciamo, in anteprima. Ora io vorrei, Mario, che tu mi dicessi, no, tu sai che ieri Alfano ha fatto una dichiarazione, dice, dopo le amministrative arriverà la più grande novità della politica italiana. Ora, siccome tutti hanno bisogno di novità, adesso tu ci devi dire, tu che sei addentro a certe cose, qual è questa novità che sconvolgerà proprio tutto gli orizzonti, cos'è? Dunque, mettiamola così, io ho titolato oggi sul Tempo, parte il burlesque elettorale, no? che siamo in tema, giocoso sì. per dire che cosa, che comunque rientra in campo la politica adesso, perché sì, ci sono i tecnici, ma la politica tornerà per forza di cose. E io immagino che, non ho notizie come dire certissime, ma nel PDL si stia lavorando sulla questione del finanziamento pubblico e che si voglia arrivare a un partito senza il finanziamento pubblico. Questa sarebbe una grande rivoluzione, vera. Quindi è questa, cioè ce l'hai detta in anteprima? È questa la novità? È una delle ipotesi sulle quali si lavora, sì. È uno dei temi sull'agenda. Quindi arriverebbe a farne completamente a meno? L'idea è quella di farne a meno. Sì, perché tu hai sentito... Cioè, un partito all'americana. Tu hai sentito che ABC, no, ormai li chiamano ABC, mi viene da chiamarli in inglese, ABC, una televisione, vogliono quindi Alfano, Bersani e Casini, hanno detto, sarebbe però, hanno detto giorni fa, drammatico non finanziare i partiti, come faremo a sopravvivere? La stessa Bindi ha detto ieri, questo è il costo della democrazia, la presidente del PD, dice, non possiamo farne a meno, li possiamo ridimensionare, ma non possiamo. Come si fa? Dunque, io conosco abbastanza bene gli Stati Uniti. non mi pare una feroce dittatura quella che non ha il finanziamento pubblico dei partiti. Quindi fare il ragionamento per cui se non c'è il finanziamento pubblico è a rischio la democrazia, passami il termine Roberta, è ridicolo. Te lo passo. Mm. Dopodiché si può sostenere che serve un finanziamento pubblico. Mm. E su questo posso, anche io che sono per un sistema americano, posso dire va bene. Dopodiché io sfido a trovare qualsiasi ascoltatore di questa trasmissione in questo momento che mette la firma su un sistema di rimborso elettorale come quello che hai descritto tu prima. Io penso che non troviamo nessuno disposto a sostenerlo. Quindi che si prende, continua a prendere il 400% in più, dici? Ma è questo. Chiaro, 2,2 miliardi di euro dal 94 ad oggi, spesa effettiva 579 milioni, surplus realizzato 1,6 miliardi, non scherziamo. Gli italiani tirano la cinghia e i partiti fanno tanto. Cioè avete sentito Mario Seghi che snocciola cifre a memoria mentre guida? Stai guidando, Mario? Stai guidando, non c'è pericolo, no? Non sto guidando io. Ah, ecco, però ti vedo lucido comunque su questi numeri, per me è sempre... Perché ahimè, Roberta, io li ho dovuti studiare attentamente in tutti questi anni, continuamente. Hai fatto molto bene. Senti, tu di solito fai le vacanze di gruppo? No, io non faccio vacanze. Sei un po' demodé. Ah, non fai addirittura vacanze, non solo di gruppo, no. Non fai vacanze. Negli ultimi 4 anni credo di aver totalizzato il numero totale di ferie 7 giorni. Perché sei uno di quegli uomini che senza lavoro non vive, Mario? Non fa bene. Lo dico alla romana anche se non ci riesco. Me tocca lavorare. Te tocca lavorare, Mario, come si fa senza di te? Adesso invece dobbiamo aggiornarci, così, visto che stai viaggiando anche tu in auto, sulle informazioni per chi è alla guida. E poi ti voglio anche chiedere una cosa. Dopo c'è Franco da Carpi all'800240024. Anzi, te la chiedo subito, guarda, rubo proprio a Paolo Corleone la parte tecnica qualche secondo. A proposito di finanziamento pubblico, eccetera, eccetera. Ora no. Parte quella questione lì, ce ne sono tante altre. Tu sai che per le agende della Camera sono stati spesi nel 2012 107.000 euro, per il Senato 41.000 euro. Secondo te sono di pelle umana come quelle di Fantozzi, queste agende, può essere, visti i costi? Sì, è la famosa agenda del coccodrillo piange. Che è difficile trovarlo veramente, e c'è pure lacrime cristallizzate su queste agende, io magari, sì, coccodrillo, vero? Sì, perché per costare così. Le agende sono, guarda, posso dire, nel mare di spese le agende sono pure, se per quello, sempre per cifre snocciolate a memoria, il Senato spende di posate 40.000 euro l'anno. Si vede che le buttano quando mangiano, poi le buttano. No, secondo me fanno altro. Perché spariscono. Spariscono, dici che fanno le posate spariscono ogni anno, non si capisce, ogni anno c'è il capitolato, nel capitolato di spese 40.000 euro per le posate. Ma il problema non è... Ma è possibile che si facciano un servizio a casa con le posate del Senato e della Camera? Non si può più. Roberta, noi abbiamo la Camera dei Deputati, sempre per snocciolare cifre, che costa 1 miliardo di euro. Il Senato 600 milioni e fischia. Altra domanda retorica, è possibile? Vorrei, a proposito di numeri, invece andare adesso al numero verde e sentire Franco da Carpi. Franco? Pronto, buongiorno. Buongiorno, caro Franco. Ma guarda, io volevo dire due cose molto semplici e brevi. Sì. La prima riguarda il Trotta, che sembra che abbia fatto un gran gesto di beneficenza dimettendosi. Io credo che abbia avuto una 40.000 euro come buonuscita. Sì. Liquidazione. Che se un operaio che ha lavorato 40 anni, un impiegato, non gli danno di licenziamento dopo 40 anni di lavoro, questi li ha avuti dopo un anno di lavoro, si fa per dire, insomma. Quindi mi sembra uno scandalo. Altra cosa molto semplice che volevo dire è questa qui. Qui si parla di partiti, no? Che la gente non vuole più. Ma io, se faccio un paragone con un'associazione delinquere, ci sono tre cose che la distinguono. Che non si sa quanti soldi ha, da dove vengono, e non paga le tasse. E mi sembra che siano le stesse tre caratteristiche dei partiti del giorno d'oggi. Cioè tu hai fatto il paragone con che associazione? Non ho capito, scusami Franco. Con l'associazione delinquere. Ah, l'associazione delinquere. Cioè un'associazione delinquere, c'è tre caratteristiche di base. Che non si sa quanti soldi ha, da dove vengono, e non paga tasse. Mi sembra che siano le tre caratteristiche dei partiti del giorno d'oggi. Non so, ti ringrazio Franco, tu pensi lo stesso Mario? No, perché in mezzo a tanti cattivi esempi ce ne sono altrettanti molto belli, cioè di gente che fa politica con spirito di servizio. Ora, l'errore che noi rischiamo di compiere ancora una volta in questo periodo storico è quello di fare il tutore al buon fascio. Posto che io sono un giornalista che non fa sconti a nessuno, soprattutto in questo momento di crisi che vede, ripeto, tutti gli italiani fare sacrifici, non bisogna neanche commettere l'errore appunto di confondere l'erba buona con quella cattiva. Noi sappiamo quanti soldi prendono i partiti, non abbiamo chiarezza invece di come vengono spesi questi soldi, e abbiamo chiaro tutti in questo momento che quel sistema di rimborso delle spese elettorali non funziona, e dunque bisogna fare pressing con l'opinione pubblica, con le istituzioni, con il lavoro di lobbying affinché quella legge cambi. Le cose sono in realtà molto semplici, bisogna solo avere la volontà politica prima di tutto di cambiare. Ma Mario, ti volevo chiedere una cosa molto, molto pratica: c'è il navigatore che si sta scaricando nella tua macchina, fai pipi pipi pipi, è quello che... No, siamo entrati di nuovo a Roma e praticamente abbiamo le macchine che parcheggiate che ci sfiorano, ma tra un po' sono di nuovo al giornale e non sentirete più un bip. No, era giusto una curiosità. Senti, allora tu sei d'accordo con la Bindi, quando dici di non fare tutta l'erba un fascio, che dice: non accetto di essere confusa con chi si è comprato diamanti con i soldi del finanziamento pubblico, dice a proposito di finanziamento. Questo la Bindi lo può sostenere legittimamente. Nello stesso tempo però la Bindi sostiene la necessità del finanziamento pubblico, sì, sul quale io invece non sei d'accordo. Penso in maniera diametralmente opposta. Sentiamo Antonio da Siracusa all'800240024, poi vorrei leggere anche qualche commento sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni. Che dici Antonio da Siracusa? Buongiorno al direttore del Tempo. Buongiorno a lei direttore. Però volevo farle una bella osservazione, direttore. Lei conosce l'America e conosce bene l'Italia, l'ho visto più volte nelle interviste televisive di politica, tipo quelle che fanno su Rai 3, là, insomma, Balerò, eccetera. Sì. Voglio dirle questo, direttore, per lei però esclude il ceto medio, e lei non mi può smentire che in Italia dal dopoguerra era nato un ceto medio grazie alla Democrazia Cristiana, sì, al Partito Liberale e alla politica laica in sostanza. Togliendo il finanziamento pubblico ai partiti, mi chiedo chi farà politica. Berlusconi, che c'ha milioni e milioni di euro ogni anno, non farò io, che ho fatto politica a mie spese girando tutta l'Italia. Antonio, scusa, mi permetto di entrare in questo dialogo, volevo dirti, cioè, la tua paura è quella, come di molti, che senza finanziamento pubblico ai partiti siano in mano poi le lobby, come dicono? Direttore, non potrò fare mai. Proprio non mi considero di un partito, sì, non potrò fare mai, sì, perché ci saranno le lobby e quelli ricchi, capisce direttore? Io sono un piccolo borghese, sì, ho speso soldi per la politica e sto scomparendo dalla politica perché i finanziamenti se li dividono i segretari. Io ho fatto sempre a mie spese, ho girato Torino, Roma, Napoli, Palermo. Antonio, chiarissimo sei stato. Antonio, scusami, ma passo subito la parola a te, Mario, visto che a me manca. Sì, ma... Sì. No, è simpatico perché voleva fare la trasmissione solo io e lui, invece so... Ma va bene, potrebbe essere un esperimento. Ci saresti tu, che sei molto più brava di entrambi. No, non è detto. Ma sì, è un timore anche fondato, se vuoi, per il tipo di sistema sociale italiano, cioè il fatto che la politica possa essere poi appaltata ai ricchi. Dei ricchi, Però io faccio anche una domanda. Col sistema elettorale attuale, con le nomine, con i capi corrente che diventano pure capi bastone e così via, siamo sicuri che la politica sia per tutti? Io ho qualche dubbio, francamente. Già adesso? Noi abbiamo notizie molto precise di campagne elettorali che sono costate qualche milionata, di persone insospettabili che venivano nominate solo perché, e quindi elette, solo perché avevano, per così dire, la capacità di autofinanziare la campagna elettorale. Cioè, stiamo attenti, perché in realtà questo meccanismo che si demonizza adesso, in realtà è già presente e non c'è concorrenza, che è la cosa più grave. Però dici, quindi poi non dopo, c'è competizione. Quindi se dopo si sancisse definitivamente non c'è nulla di nuovo, ma dici, poi c'è questa... No, è meglio, perché comincia a mettere in moto altre forze. La competizione per raccogliere i fondi. Scusa Mario, adesso vado tra pochissimo sui commenti a questo proposito dei facebookiani, degli ascoltatori e ascoltatrici sulla pagina Facebook della trasmissione, però volevo chiederti una domanda forse un po' stupida che mi viene al momento, no? Faccio una piccola deviazione, è presente il dibattito sulle frequenze TV, il ministro Passera ha deciso di eliminare questo beauty contest in base al quale venivano date queste frequenze, diciamo, gratuitamente a Rai e a Mediaset, e ha detto no, facciamo l'asta perché qui bisogna far cassa con questo paese che ha pochi soldi, no? Quello che mi sono chiesta io, perché si indigna, sembra una domanda stupida, può darsi, tutto il PDL quando invece è Berlusconi che semmai dovrebbe dire o non dire sue ragioni o non ragioni, perché tutto un partito si dovrebbe incavolare su questa questione delle frequenze? Diventa il partito azienda oppure, dimmelo tu, perché? Posso dirlo sì. Proprio chiaro chiaro? Chiaro chiaro. Perché ogni tanto nel PDL sono più realisti del re. Mm. Cioè, è molto semplice. Traduzione? E credono di fare un favore a Berlusconi e invece secondo me non glielo fanno affatto. Ah. Potrebbero tranquillamente tacere e far risolvere tutto attraverso la mediazione politica, che è cosa quanto mai buona e giusta, no? Benissimo. Non sì. Capisco, cioè se Berlusconi non parla e parla con Falonieri, che mi pare più che sufficiente, appunto, direi, no? Che esprime l'opinione legittima dell'azienda. Certo, certo. Perché il partito deve esprimersi su una cosa su cui tra l'altro quasi nessuno ha competenza, parliamoci chiaro. Cioè chi conosce realmente il problema dal punto di vista legislativo, oltre che tecnico ed economico, saranno un 2 o 3 se va bene. Allora, siamo perfettamente d'accordo, Mario. Tacciano, ci fanno anche un favore, ci occupiamo di cose anche, insomma, un po' più serie che le loro opinioni. Mi pare. Allora, Mario, devo dire che adesso, sì, Paolo Corleone, a parte tecnica, mi informa che abbiamo questo collegamento con un altro pianeta. Tu sai che questa è l'unica trasmissione in tutto l'universo che ha anche, diciamo, questo collegamento extraplanetario, e rischiamo di perdere il collegamento se non lo facciamo subito. Prego. Riflessioni da Marte. Si osserva anche da quassù, da Marte, che le condizioni meteorologiche condizionano notevolmente anche la politica italica. Innanzitutto la pioggia, certo oggi magari un po' meglio, ma la pioggia copiosa in questi giorni porta inevitabilmente fango. Ed ecco esponenti politici di vario orientamento lamentarsi dell'abbondanza di pantano e denunciare la macchina del fango o la macchina nel fango, non si è capito bene, insomma si sono inzaccherati loro o la macchina. Ma va detto, nonostante la pioggia è pur sempre primavera. Ed ecco un partito in particolare annuncia per l'appunto scrupolose pulizie di primavera. Ma altresì attinente a questo periodo dell'anno è l'adagio aprile, dolce dormire. Ed ecco allora alcuni esponenti politici cogliere al balzo la saggezza popolare e di fronte ad accuse per l'appunto infanganti poter coerentemente dire io non c'ero e se c'ero dormivo, essendo aprile. E qualcuno invece la butta in burla, anzi in burlesque. Hanno detto che si travestivano da poliziotti. È vero, facevano delle gare di burlesque. Io guardavo molto interessato e perché mi divertivo molto e continuerò a farlo. Anche Gesù, del resto, è un governatore regionale, lo potrà ben confermare, qualche volta si è impantanato, oltre a scegliere male i suoi collaboratori. Certo, non andavano di moda a suo tempo le vacanze di gruppo, ma per i politici peccatori ci potrebbe essere uno straordinario salvacondotto, che non è il Parlamento, A Vittorio Veneto, informano le cronache di questi giorni, c'è un prete sordo che assolve tutti. E la gente fa la fila per confessarsi, insomma uno straordinario segno di questi tempi. E se per i politici peccatori non dovesse bastare il sacerdote ipoudente, per sostenere le loro argomentazioni, sovente assai bislacche, diciamo così, vero, gentilmente, potrebbero prendere esempio da quello scienziato che, come si è appreso questa settimana, è riuscito a non pagare una multa dimostrando con un trattato scientifico che il vigile aveva avuto un'illusione ottica. Ma non è detto che con la scienza si possa salvare anche la coscienza. Che il povero sia in fondo un gran signore, che il servo stia assai meglio del padrone, che le persone anziane stian benone, che i giovani abbiano sempre un'occasione. Facciamo finta che tutto va bene, facciamo finta che tutto. Ormai ritorniamo con i piedi per terra, diciamo, altri pianeti. Per esempio, andiamo a sentire all'800 24 0024 Alberto da Bergamo. Sì? Pronto? Eccoci qua, Alberto. Salve. Salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una riflessione, che è questa. Sì. Condivido pienamente il ragionamento del direttore del Tempo, che la politica debba essere l'americana, cioè chi vuole il suo politico, il suo partito, se lo paga. Ci sarebbe molta più chiarezza e molti meno partiti, che non sarebbe un male in questa gran confusione che c'è. Però il discorso, secondo me, ne manca un pezzo. Non ho mai sentito in questo periodo nessuno dire: perché non li togliamo anche i sindacati, i finanziamenti? Perché devono vivere di soldi pubblici, quando fanno politica anche loro, chi per conto dei comunisti, chi dei socialisti, chi dei democristiani, chi della Lega, chi della destra, e poco gli interessi di chi rappresenta. Però io proporrei di togliere i soldi anche loro. Chi li vuole, i sindacati, se li paga. Punto. Alberto, può essere una proposta questa. Sentiamo... Anziché, scusi, avere cinque sindacati di diversa natura politica, ne basterebbe uno che facesse veramente non politica, ma gli interessi di chi rappresenta. Lo so, ma questa storia delle diverse sfumature politiche, diversi orientamenti, forse non credo che sia così scavalcabile. Comunque, Alberto, può essere anche questa un'ipotesi. Mario, che ne pensi? Mario Secchi? Sottoscrivo. Sottoscrivi? Beh, proprio lapidario. A me sembrava una specie di segnalazione di bomba quella che sentivo, perché mi mettevo un po' di... Cioè... No, avevamo un camion della spazzatura. Cioè, vuoi dire che la macchina sulla quale viaggi ha dei sensori tutto intorno, che appena uno si avvicina fa tintidintidì? È un continuo titin, allora, in città, scusa. Sì, infatti non era il massimo, devo dire. No, ma non per me, è per te che viaggi dentro. No, per me. Vero, come è che sì, da un po' ansiosa, questa cosa. Comunque, dicevamo, non Renato da Sassari all'800240024, ma da Salerno, quindi siamo in Campania, bellissima città anche Salerno. Renato. Salve. Ciao Roberta. Ciao. Saluti anche al direttore. Molto bene. Saluti. Io volevo intervenire sul finanziamento pubblico. Sì. Premesso che chiaramente non ne dovremmo proprio parlare, perché abbiamo fatto due volte il referendum. Hai ragione. È stato bocciato. Sì. E nonostante tutto la politica è riuscita comunque ad inserirlo, peggiorandolo fra le altre cose, perché aumentandolo in maniera veramente sproporzionata. Sì. Ma un altro problema principale: si è parlato tanto di trasparenza, si parla tanto ma si realizza poco. Se si parla di rimborso, chiaramente dovrebbe essere agganciato alla spesa, cioè io ottengo un rimborso di ciò che ho realmente speso, per cui prima giustifico la spesa, poi ottengo il rimborso. Se spendo 10, devo avere 10. Non qualcosa in più che poi utilizzo non so cosa, non so come. E la matematica non è un'opinione, sì. Perfetto, come ti stai evidenziando. Diciamo che può anche esserci un rimborso elettorale giusto in questi termini, per favorire anche coloro giustamente che non hanno delle risorse enormi, e quindi dare questa possibilità potrebbe essere una cosa democraticamente giusta, anche se condivido l'aspetto che diceva il direttore sugli Stati Uniti d'America, che non mi pare una dittatura non avendo il rimborso elettorale. Ma l'aspetto più importante, secondo me, è proprio questo, il ridimensionamento della politica, perché noi abbiamo oggi una classe politica che lo fa per mestiere e che modifica completamente il suo status sociale. Cioè, noi molte volte troviamo delle persone che con la politica si arricchiscono. Io parto sempre da un presupposto, dovremmo fare in questo modo. Status patrimoniale di chi assume la funzione politica nel momento dell'ingresso, status patrimoniale di chi lascia la politica, se è rimasto più o meno lo stesso, allora possiamo dire che è stato un buon politico, ma se questo ha creato una differenziazione economica notevole, come si vede, basta girarsi intorno, ma non solo a livello nazionale, io dico pure toccando i tassi regionali, i tassi per qualche volta pure provinciali, per non parlare delle società. Per cui quello che in realtà lo Stato ha bisogno in questo momento proprio di crisi veramente, quindi la popolazione ha bisogno di questo, di vedere un esempio, cioè di vedere un ridimensionamento economico del ruolo della classe politica. Dei cogli, dei tagli alla casta, ai costi della politica, appunto ai rimborsi elettorali o finanziamenti pubblici, alla corruzione di sottobosco, della burocrazia, questo se ne parla da moltissimo, non si può continuare naturalmente a spremere la gente comune con le tasse. Adesso leggevo, non so se è vero, di una possibile seconda IMU, ma non voglio lanciare allarmi, lo leggevo velocemente, mi pare un titolo di Repubblica. Renato, sei stato molto chiaro, cosa ne pensi, Mario, di questo prima e dopo che proponeva Renato, oltre ai tagli che non sono più discutibili naturalmente, anche se doveva vedere quando. farei un'aggiunta, cioè un durante. Il prima, il dopo e il durante. Hai ragione. Ogni anno il reddito dei parlamentari va sottoposto a una revisione costante, da parte, è uno scrutinio attento. Ma mi pare una cosa di buon senso, questo avviene regolarmente sempre in quella feroce dittatura che sono gli Stati Uniti d'America, voglio dire. Qua dobbiamo uscire dall'ipocrisia, che non è solo italiana ovviamente, intendiamoci, però è fortemente radicata in Italia, per cui del soldo non si parla e se ne parla soltanto quando è sparito. Il denaro è sporco del resto. Esatto, quando è avvenuto un furto più o meno legalizzato. Ora, noi dobbiamo essere capaci, una volta per tutte in questo paese, di far emergere in maniera trasparente le contrapposizioni di interessi. Ma voi ve li immaginate che non abbiamo ancora una legge sulle lobby? Ma com'è possibile? Si chiede che qualunque politico straniero che mette il piede nel nostro Parlamento... A proposito di investimenti. Certo, per cui noi abbiamo delle situazioni incredibili, che i lobbisti seri si affiancano invece dei brasser, diciamo così, delle persone che hanno poco a che fare con la nobile attività di lobbying e che ne approfittano. Ed è lì che circolano le mazzette, il denaro nero, le pressioni indebite, i cambiamenti legislativi all'ultimo momento per favorire l'uno o l'altro in maniera non trasparente. Negli Stati Uniti c'è un registro. Qualsiasi congressman incontri un esponente di un'associazione, di un'industria, di una categoria, viene registrato. Viene registrato persino cosa mangiano insieme, eventualmente, se gli ha offerto un caffè, se gli ha pagato lui l'aperitivo e così via, e tutto finisce in un registro che poi è pubblico perché è online. Ora, se tutto questo non lo possiamo realizzare subito, sarebbe auspicabile, io sono una persona credo mediamente ragionevole, un piccolo passo avanti. Invece non c'è neanche quello, per cui noi navighiamo nel grigio e ci occupiamo del soldo troppo tardi, quando è già stato speso o, diciamo così, fatto sparire. Condivido pienamente. Prima di sentire Cosetta da Oristano, Walter da Trento e le altre ascoltatrici e ascoltatori al numero 800 24 00 24, con Gian Gabriel Lombardo che sta prendendo telefoni bollenti in mano dall'altra parte, Rosa, tutto un girio di telefonate, e volevo dare anche un po' di spazio, dicevo, alla pagina Facebook della trasmissione di Non ci sono più mezze stagioni, anche perché appunto l'argomento è quello del finanziamento pubblico ai partiti. Renzo scrive che pure se ci indigniamo solo per ora per una pratica che ha origini lontane, comunque qualcosa, se pensiamo che un anno fa discutevamo di Bunga Bunga, mi sembra già un passo enorme. Gianfranco scrive: la politica in Italia si finanzia con 1. Lobby, 2. Malaffare, 3. Contributi pubblici, siccome il pretesto per tenere in piedi il terzo elemento è l'assenza dei primi due, e constatando che i primi due elementi sono invece ben presenti, occorre eliminare qualsiasi forma di finanziamento pubblico. E dice anche il 5 per 1000 è un'amenità. Rosi, poiché, scrive, sono soldi che lo Stato dà ai politici per sostenerli e questi milioni di euro li togliamo a un bilancio statale già indebitato, sarebbe bene che fossero i cittadini a sostenerli, se la politica funzionasse e adempisse allo scopo costituzionale per cui è nata. Il popolo, se si sente ben rappresentato, non si tirerebbe indietro, dice. E fa l'esempio di un 5 per 1000 che si potrebbe dare. Domenico invece pubblica un post sulla pagina, poi lo andate a vedere voi, con una proposta, proposta di referendum. Enrica, che dire, alle prossime elezioni vinceranno le schede bianche, non ci sono commenti davanti a queste schifezze e tutti i giorni sappiamo qualcosa di nuovo, ultima le spese folli per fornire agende ai parlamentari e ai senatori, come si giustificano? Giovanni invece scrive: certo, dare dei soldi a certi signori che poi in linea di massima sono sempre gli stessi per fare politica, e cioè in altre parole per continuare come sempre a fatto a prenderci in giro, diciamo molto demotivati e disillusi. Francesco: in Italia ogni volta che si scoperchia una pentola si trova del marcio, praticamente un magistrato se vuole va sempre a colpo sicuro. Rosanna scrive: il satrapo non c'è più ma muove i fili dietro le quinte, avevamo votato al referendum contro il finanziamento pubblico ai partiti, hanno cambiato nome, continuato a finanziare le loro ruberie, niente, non meritano niente, abbiano il buon senso, se proprio li si deve aiutare, di presentare ricevuta e ottenere aiuti finanziari esclusivamente su spese più che documentate. Mimmo scrive: mi associo all'indignazione di Rosanna, neanche un euro ai partiti per il semplice fatto che non c'è più un euro. Ricordi perché nel pubblico si danno gli stipendi più alti a magistrati generali e mega funzionari? Per non farli cadere in tentazione, abbiamo sempre pensato. Hai visto i risultati? Ci eravamo illusi. E poi Corrado dice non c'è più trippa per gatti, Dora dice ci sono però molti gatti, e, Angelo, Giovanni, abbasso il finanziamento pubblico ai partiti, Angelo dice del finanziamento pubblico ai partiti e all'editoria, aggiunge lui, penso che vadano aboliti e che vado subito al gazebo del mio paese da questo sabato a raccogliere firme per il referendum abrogativo, eccetera, eccetera. Insomma, molta indignazione. Sentiamo Cosetta da Oristano. Buonasera a tutti, buonasera a lei, dottoressa Giordano, e anche al mio conterraneo che è il dottor Secchi. È sardo, sì. Ma Mario, esattamente, scusa, di dove tu, Mario? Non mi ricordo. Lui è di Cabras, come la mia mamma. Ah, ecco. Hai visto com'è informata, Mario? No. Allora, Cosetta, che ci dici da Oristano, sì. Dalla bella Sardegna? Io, è dalla mia bellissima terra, che è tanto fustigata, oltretutto, per carità, anche dal governo centrale. Stendiamo un velo pietoso sotto questo aspetto. Io sono una di quelle che è triste indignata, sono un'insegnante, questo è il mio 38esimo anno di servizio, e la cosa che più mi fa rabbia è che a me, per poter andare in pensione, mi chiedono 45 anni di contributi, e ai parlamentari ancora oggi hanno lasciato, dopo un mandato di 5 anni, la possibilità di avere la pensione. Questa è una cosa che non è assolutamente accettabile, che la Fornero dovrebbe rivedere, così il governatore Monti, con tutto il rispetto che posso avere per lui, non ho più rispetto per questa gentaglia, perché già a Radio 24 4-5 giorni fa avete intervistato un parlamentare siciliano che è tra quei 32 o 35 che hanno fatto ricorso per la loro, perché vogliono il vitalizio, sì. Sì, esattamente. E lì era la prima volta che ho appreso che il deputato, che poi è diventato senatore, percepisce la pensione da deputato e lo stipendio da senatore, e oltretutto il giorno in cui andrà in pensione riceverà anche la pensione dal lavoro che faceva, può essere un medico, un avvocato. Ma è possibile che l'Italia possa dare 3 pensioni a questa gente? È assolutamente improponibile. Questo proprio è, secondo me, una cosa così che stride contro tutti quelli che lavorano, contro tutti quelli che hanno sempre fatto il proprio dovere in qualunque posto si possano trovare, e che oggi hanno da fare i conti, perché il ceto medio, come posso essere io, che sono un insegnante, che grazie a Dio ancora oggi, anche se con tanti sacrifici, ho fatto laureare i miei figli, e super masterizzate. Ecco, se mi dicessero che questi anni in più servono perché le mie figlie e quelli come le mie figlie possono avere un lavoro, lo farei anche volentieri, ma non tutto questo. Non è possibile sentire che un trotta che non sa neanche leggere e scrivere e come lui tanti altri, Dio mio, ma come si fa a pensare che ha 40.000 euro di buona uscita? Ma questo non può essere accettabile, è una roba fetente, che più fetente non si può. È questo che il governo deve vedere, deve pensare, perché sarà il partito degli astensionisti a fare quella nuova politica, sa? A me dispiace tanto, perché io sono una di quelle che ci ha sempre creduto, sono stata educata alla libertà, al sacrificio, al lavoro, al rispetto, ma oggi veramente sono doti ormai non comuni, anzi, siccome c'è gente così, se viene anche deriso, perché tanto siamo tutti uguali. Cosetta, è chiaro che non siamo uguali. Con la tua passione ti lascerei andare avanti, però purtroppo i tempi stringono. Mario Secchi, ti faccio una domanda, il tempo corre, quindi abbiamo bisogno di risposte sintetiche, anche se tu sei molto bravo nella sintesi. Ti chiedo questo, allora, tutta quella faccenda che è successa nella Lega e che va avanti, no? E con nuove con novità ogni giorno. Allora, Bossi ha iniziato dicendo, appena uscita questa cosa, è un complotto della magistratura, della stampa. Poi Maroni ha detto che non ci crede. Poi Maroni ha detto, anzi, è bene che sia uscita questa cosa perché abbiamo capito che pasticci ci sono dentro la Lega e facciamo pulizia. Calderoli ieri ha detto, l'altro ieri, nel nostro partito ci sono un sacco di vipere. Poi oggi ha detto no, è un complotto antisistema, dando ragione a Grillo, che ha detto a sua volta 2 giorni fa: vi stanno facendo fuori a voi della Lega non perché siate più sporchi degli altri, ma in realtà perché siete l'unico partito d'opposizione, con anche Di Pietro, lo faranno anche loro. La spiegazione dov'è? Cos'è successo, secondo te, molto sinteticamente? Nella Lega ci hanno marciato e a un certo punto è scoppiata la grana padana. Ah, la grana padana è molto bella, questa è la grana padana, me la scrivo, per un punto è grana padana. E senti, adesso invece abbiamo questo appuntamento, quale andiamo a incontrare Don Severino, prima parroco a Firenze, poi a Potenza, che va chiamato tempo fa e mi ha colpita, e quindi vorrei dargli la parola su una notizia di questa settimana in 2 minuti. Don Severino, è ciao. Pronto? Sì, eccoci qua. Buonasera. Stando un po' al tema e l'argomento di questa settimana, volevo dire questo, che io come sacerdote e la Chiesa usufruiamo anche noi del finanziamento pubblico, no? L'8 per mille. Sì. E quindi, ecco, tenendo conto di questo, lei sicuramente ha saputo del fatto del parroco del Ferrarese che ha negato la comunione a un bambino disabile, no? La scorsa settimana, folle, indegna, sì. Folle. Ecco, allora, semplicemente vorrei ricordare a questo parroco che anche lui riceve come me lo stipendio dei cittadini ed ha il dovere di venire incontro anche verso questo bambino. Se questo non vale perché c'è una dottrina, ma è sbagliata, perché la dottrina del Papa non è questa, anzi lui ha detto in un documento che la comunione va data anche ai disabili, allora vorrei ricordare, diciamo, a lui e a tutti quanti noi che se Gesù, quando era sulla terra e guariva i disabili o quelli che non intendevano e volevano, dovevano attendere che lo riconoscessero come figlio di Dio, e allora non avrebbe fatto nessun miracolo. Per cui, ripeto, dato il tema della settimana, ricordiamoci noi sacerdoti che noi viviamo dell'8 per mille che viene dato dai cittadini, quindi cerchiamo almeno noi di usufruirne e di ricordarci che noi abbiamo avuto un dono, non è proprietà nostra, e quindi anche l'Eucaristia va data a tutti. Grazie Don Severino! Anche se anche Gesù sbagliava i suoi collaboratori. Ma comunque adesso andrei invece alla nostra Valeria Della Valle a chiederle, della Sapienza di Roma, linguista esimia, il termine faccendiere, visto che è venuto fuori molto in questi giorni, e non solo in questi giorni, cara sì, Valeria. Ecco, faccendiere, certo, è venuto fuori molto in questi giorni e in questi anni. La parola deriva da faccenda e originariamente non aveva una connotazione negativa, voleva dire semplicemente appunto chi si dedica alle faccende, agli affari. Però poi nel corso del tempo si sono aggiunti significati negativi, fino ad arrivare al valore attuale, che più o meno, soprattutto nel linguaggio giornalistico, indica chi svolge per conto di un'imprenditore privato e con metodi più o meno leciti, di solito illeciti, attività di mediazione presso la pubblica amministrazione. Ecco, a proposito di questa parola, non riuscivo a trovare, come faccio le altre volte, un finale così un po' ottimista. Forse l'unico che sono riuscito a trovare è questo, che a usare per primo questa parola in senso negativo, proprio col valore di trafficante in affari poco onesti, è stato Niccolò Machiavelli nel 1513 nel Principe, quindi i faccendieri c'erano anche allora. Niente di nuovo sotto il sole. Come era avanti quell'uomo? Grazie Valeria Della Valle. Arrivederci. Grazie Valeria Della Valle. In questi pochi secondi che ci rimangono, intanto saluto Walter da Trento e ti chiedo scusa e ci sentiamo una prossima volta. Non la prossima, che c'è una puntata speciale, quella dopo. Va bene Walter? Walter? Pronto? Pronto? Sì. Sì, va bene, grazie. Grazie, sei molto gentile Walter. Grazie. Invece per chiusura, invece a Mario Secchi, volevo chiederti, hai visto questa notizia di un processo? Ci sono state 3 udienze finora e 2 giudici per emettere una sentenza sul furto di un pacchetto di caramelle dal valore di 1,19 centesimi IVA compresa, rubati qualche tempo fa da una ragazza romena 24enne che non si trova più. Vanno avanti i processi, probabilmente forse solo a novembre si avrà la sentenza di primo grado. Che paese è questo, Mario Secchi? È un paese che non deve mandare in tribunale queste cose, si possono risolvere con semplici arbitrati, giudici di pace, insomma, ma perché dobbiamo spendere i soldi per un pacchetto di caramelle? Ma non se ne può più. Mario Secchi, io ti abbraccio e ti saluto. Ciao, anche io a te. Ciao, ciao Mario, buon lavoro. Da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.